Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. La rabbia di una donna tradita è una riflessione sul tempo nell'ultimo romanzo dell'americana Jamaica Kincaid, un libro che arriva dopo 10 anni di silenzio e che negli Stati Uniti ha suscitato polemiche. Nel vocabolario Zingarelli 2015, 55 definizioni d'autore. Lella Costa ha scritto la parola donna. Quando gli scrittori fanno brutte figure, le confessano nel volume Figuracce. Lei si chiama Jamaica Kincaid, è nata ad Antigua, vive negli Stati Uniti fra il Vermont e la California. Ha scritto romanzi come Autobiografia di una madre, Un posto piccolo e Lusi. Dopo più di 10 anni di silenzio narrativo ha pubblicato Vedi adesso allora, edito in Italia da Adelphi con la traduzione di Silvia Pareschi. Appena questo romanzo è uscito negli Stati Uniti ha sollevato un vero e proprio vespaio. Nel romanzo infatti la protagonista fa una lunga invettiva contro l'ex marito che l'ha lasciata per una donna più giovane. Insomma, niente di nuovo su questo fronte. Allora perché ci sono state queste polemiche? Beh, perché la Kincaid è stata lasciata dal marito appunto per una donna più giovane, sembra una storia autobiografica, e l'ex è il compositore Allen Schon, figlio del defunto direttore del New Yorker William Schon e fratello di Wallace Schon, che è un attore. Insomma, attraverso questo romanzo la scrittrice avrebbe di fatto lavato in pubblico i panni sporchi di alcuni VIP, e quindi questo ha fatto scalpore. Tra l'altro, la protagonista femminile di questo romanzo, Miss Sweet, usa parole aspre nei confronti del suo ex, come del resto lui le usava nei suoi confronti. Per esempio, la definiva stupida strega arrivata con la nave delle banane, facendo riferimento alle sue origini. Insomma, la Kincaid è stata molto criticata per questo romanzo negli Stati Uniti. Lei si è sempre difesa dicendo che non è un'autobiografia, anzi, se insomma si prova a farle questa domanda, diciamo che si arrabbia moltissimo. Allora, comunque sia, veniamo alla trama del romanzo. Protagonista, dicevamo, la signora Sweet, scrittrice. Il marito è musicista, ci sono 2 figli poi, insomma, che vivono con loro in una casa del Vermont che era stata della scrittrice Shirley Jackson. Allora, incontrando Jamaica Kincaid, la prima domanda naturalmente che viene in mente è perché questi 10 anni di silenzio narrativo? Sentiamola nella traduzione fatta in presa diretta da Chiara Serafin. Oh, yes, people ask that all the time, but... And it always puzzles me because writing is—it's not like the other jobs where you have to produce something. I mean, you write. In effetti le persone mi rivolgono sempre questa domanda e mi lascia un po' perplessa questa domanda ripetuta, proprio perché scrivere non è assolutamente uguale a nessuno degli altri lavori, per così dire, nei quali è importante produrre qualcosa. Si scrive perché si ha qualcosa da dire, qualcosa di esprimere. A volte si vuole scrivere semplicemente solo una frase, magari ci vogliono 10 anni per scrivere questa frase. Non lo so, non è come fare vestiti, disegnare una collezione, lavorare nel campo della moda in cui ogni stagione bisogna produrre qualcosa. E mi lascia sempre perplessa, ripeto, questa domanda, che mi chiedano dopo 10 anni è arrivato un nuovo libro, ma allora perché non mi chiedono dopo 10 minuti, perché non dopo 10.000 anni? E devo dire che mi lasciano sempre un po' interdetta quegli scrittori che pubblicano un libro l'anno, perché magari nessuno di questi libri merita di essere letto, magari solo il decimo del decimo anno merita di essere letto. Ogni scrittore ha una propria stagione, per così dire, congeniale. Io scrivo lentamente, magari ogni giorno scrivo e ripeto la stessa frase perché ci vuole tempo per trovare il ritmo, la pregnanza giusta. Quindi mi sorprende che mi si faccia sempre questa domanda. Che ne so, magari non pubblicherò mai. Scrivere scrivo sempre, ma magari nulla arriverà alla pubblicazione. I mean, which is to say I might never publish again. I write all the time, but I don't think everything must be put out. Yeah. Questo romanzo, Vedi adesso allora, ha un titolo che si comprende solo leggendolo, insomma. Lei insiste molto sul tema del tempo, quello che è un adesso può diventare un allora e così via, insomma si gioca fra passato, presente e futuro. Perché ha scelto questo tema? Why did I choose time as a topic? I think in a way I have always been interested in it, not solely, but Dunque, perché ho scelto il tempo come tema fondamentale? Va detto che io sono sempre stata interessata al tempo, anche se non me ne rendevo perfettamente conto. Solo recentemente ho capito che tanti dei miei interessi, delle mie idee, potevano essere riuniti sotto l'intestazione comune del tempo. Per esempio, per me la vita è cominciata nel 1492, quando Colombo si è messo in viaggio per andare verso l'America, anche se non lo sapeva. Ha scoperto il Nuovo Mondo, voleva andare a Occidente, è andato verso Occidente per andare a Oriente, voleva andare in Cina e in India per le spezie e invece si è ritrovato sulle sponde del mio paese, dove sono nata io. E nel 1492 è cominciato il Nuovo Mondo. E io ho sempre pensato, sì, è iniziato nel 1492, è partito a Colombo con le sue caravelle, poi è iniziato il traffico degli schiavi e ad un certo punto ho detto, ma questo è il tempo, a me interessa il tempo. E quindi se io dico che la mia memoria ricomincia nel 1492, poi prosegue e arriva al 2014, che cosa faccio se non parlare del tempo? E se il 1492 è il passato, però nel 1492 il 2014 era il futuro e poi c'è tutto il tempo in mezzo. A un certo punto il passato è stato presente, il presente è stato futuro, questo presente diventerà il passato e tutti questi periodi sono momenti del tempo. E a questo legato c'è il tema della memoria, cioè quando qualcuno si prende la briga di mettere per iscritto tutte queste cose o di raccontarle. Quindi è sempre stata questa una mia ossessione, quella della storia, del passato, della giustizia e dell'ingiustizia soprattutto. E quindi in pratica ho cominciato questo libro quando ho ripensato al fatto che mia madre mi mostrasse tutti i giorni una foto di me bambina a 2 anni e mi raccontasse ossessivamente che cosa era accaduto quel giorno e mi raccontasse che in un certo senso avrebbe voluto impedire che io nascessi. Quindi questo libro è nato da una meditazione sul tempo. Come sistemiamo il tempo? È attraverso la memoria, il ricordo che sistemiamo il tempo. E poi nel libro io ho dato al tempo una cornice, come cornice una situazione domestica. Abbiamo una madre, un padre, 2 figli che rappresentano l'involucro e quello è il primo addomesticamento del tempo. E poi abbiamo l'aspetto della geologia, questa descrizione delle montagne che anche rappresentano un addomesticamento del tempo. Diciamo che in questo libro ci ho buttato dentro di tutto, come c'è un'espressione inglese che ci ho buttato dentro di tutto e pure l'acquaio della cucina. The domestication of it, the home, but then the larger domestication of geology, it has a lot of geological reference in it, which is our human home, the earth, so there's that. Yeah, there's all sorts of things. I threw in, as they say, the kitchen sink, you know how they say, throw everything. It's an English saying. Pour, you throw in everything and the kitchen sink. Protagonista di questo romanzo è la signora Sweet, Mrs. Sweet. Il romanzo è una lunga invettiva nei confronti del marito che l'ha tradita e è andato via con una donna più giovane. Ci sono delle parti anche molto aspre di questo romanzo. Quando Mr. Sweet pensa, è stata lei a trascinarmi qui. Quella stupida strega arrivata con la nave delle banane. E mia madre me l'aveva detto di non sposarla. Non avevamo niente in comune allora e non abbiamo niente in comune adesso. Ritorna spesso questa anche accusa razzista, insomma, che la moglie è arrivata con questa nave delle banane, che è una strega. C'è proprio, insomma, una rabbia forte di questa donna nei confronti del marito e del marito nei confronti della moglie. Oh, but why not? one of the things that I've always been accused of in writing and these accusations which are... Perché no? In effetti mi viene sempre mossa questa accusa, quando si tratta della mia scrittura, del mio modo di scrivere in questo contesto letterario, che io sia piena di rabbia. Ma io mi chiedo, ma perché è un difetto? Io non riesco a capire perché sia un difetto scrivere in questo modo. Si pensa in effetti che nel passato la letteratura è stata piena di romanzi, di scritti che contenevano tanta rabbia. Nella letteratura classica, ad esempio, pensiamo alla madre che mangiava i figli, giusto per pensare ai miti greci, le mogli che uccidono i mariti, non è certo una cosa insolita, quindi non capisco perché non lo possa fare anch'io. E poi la vita di una coppia coniugata, sposata, è estremamente complessa, piena di emozioni, ci sta dentro anche la rabbia sicuramente. E poi per quel che riguarda l'accusa di queste le barche, le banana boats, in effetti è semplicemente constatare un dato di fatto, cioè tanti immigrati che provengono da quelle regioni arrivano, sono arrivati a bordo di queste imbarcazioni. Certo, non arrivavano a bordo di yacht, magari arrivavano a bordo di queste banana boat oppure nelle navi negriere, quando ad esempio dall'Europa dell'Est arrivavano a Ellis Island. E poi non è assolutamente razzista questo tipo di affermazione, è semplicemente constatare le cose così come stanno. Come posso dire, il marito proveniva da una famiglia principesca, per così dire, e la moglie invece da una famiglia umile. Io tra parentesi non dico mai che lei è di colore, ma non è razzista, è un dato di fatto. C'erano appunto questi paesi, erano produttori di banane, venivano utilizzate queste imbarcazioni per trasportare le banane, e le persone venivano usate come bagaglio e trasportate come se fossero una merce. E poi non dimentichiamo che questa immagine della banana boat a me suonava bene, cioè aveva senso, questa aveva significato per me a livello di suono, perché nella mia scrittura mi capita spesso di scegliere le parole in base al suono che hanno. Un altro esempio che faccio è quello della casa di Shirley Jackson. In pratica questa famiglia non vive, volevo che vivessero in casa di uno scrittore del New England, potevo scegliere anche Robert Frost che abitava da quelle parti, ma io non l'ho scelto proprio per il peso di Robert Frost, per il suono Robert Frost non mi andava bene con la mia con questa famiglia. Non dimentichiamo poi che il figlio di Robert Frost ha commesso suicidio nella casa di Robert Frost, siccome non rientrava nella narrativa della famiglia il tema del suicidio, non mi andava bene. Quindi per me Shirley Jackson e Banana Boat sono espressioni che funzionano con la mia poetica, e in effetti mi capita spesso che quando scelgo i termini per il mio libro di pensare al suono, al linguaggio, e invece che cosa succede quando lo leggono i lettori e i critici? Vengo tacciata di razzismo, perché questo purtroppo ha a che vedere col fatto che io sono una donna eppure di colore, e quindi l'idea di base è che quando io scrivo o faccio qualcosa deve essere per forza a che vedere con la razza, il genere, il razzismo, e ne quando io penso alla mia razza, al mio genere, semplicemente quando me lo ricordano gli altri. But it has to do again with my gender and supposed race, that I can only be thinking of race because I am race. I define race. So every time I do something, it must be race. I'm hardly ever thinking about race until someone else mentions it. I don't care. Tempo fa c'è stato uno scrittore americano che ha detto: io non leggo libri scritti da donne. Secondo lei c'è un po' di discriminazione da parte del mondo intellettuale nei confronti delle scrittrici? I haven't heard of him. He doesn't. He's not a writer. I don't know what he is, but non ho mai sentito una cosa del genere. Magari la prima cosa mi viene da dire è che non è uno scrittore. Ma in effetti un'affermazione del genere non merita neanche una risposta. Ma chi potrebbe mai sognarsi di dire una cosa del genere? Magari l'ha affermata nel XVII, parlando del XVII secolo, nel XVII secolo, quando le donne non scrivevano. Beh, d'altra parte, se lui afferma una cosa del genere, non avrà nemmeno lettrici donne. C'è uno scrittore che poi in maniera molto conveniente è anche ispirato, che una volta ha affermato: le donne non sono simpatiche, non sono spiritose, non fanno ridere, non sono divertenti, e poi subito dopo è morto. And that's the trouble with dying. Every idiot does it. E questo è il problema della morte, del morire. Ogni idiota muore. Nel suo libro insiste anche molto sul tema dell'odio come un aspetto dell'amore. A un certo punto lei scrive: l'odio è una variante dell'amore, perché l'amore è il parametro e tutte le altre forme di emozione sono solo forme che si riferiscono all'amore, e l'odio, l'esatto contrario, è la forma più simile. Insomma, odio e amore alla fine coincidono così tanto. Oh my goodness, yes, they are never far from each other. They exist sometimes simultaneously. Sì, in effetti non sono mai lontani tra loro questi sentimenti, esistono contemporaneamente, a volte coesistono ignorandosi l'uno l'altro, senza che uno sappia dell'esistenza dell'altro, oppure sono intrecciati, sicuramente non sono mai separati, a volte potrebbero essere nascosti o diciamo silenti, però non sono mai separati. Dove c'è l'uno, l'altro non è lontano, a volte molto vicino. Forse uno di questi due sentimenti è attivo, a volte possono essere attivati entrambi, ma per me non esistono mai in maniera indipendente, sono come Castore e Pollice. Exist solely. Where there is one, there is the other, is what I mean. They're like Gemini, Costa and Pollock. La sua scrittura in questo romanzo è proprio un flusso di pensiero, un flusso di riflessioni. I punti arrivano dopo molte, molte frasi. Questo è il suo modo standard proprio di scrivere, e questo è il suo primo approccio alla scrittura? O era necessario scrivere questo romanzo in questo modo? This novel is the most In questo libro ho portato all'estremo questo modo di scrivere. Ecco perché ci ho messo così tanto a scriverlo, perché io ho sempre cercato di costruire il mio stile in maniera molto molto attenta. E ho sempre scritto queste frasi convolute, lunghe. Basti pensare che il primo racconto che ho pubblicato, Girl, era rappresentato, costituito da un'unica frase di 600 parole, e lì finiva il racconto. One sentence, but it's over, and that's all it is, a short story, one sentence, it's called Girl. Riflettere sul tempo e il suo modo di scrivere la fanno somigliare a Proust. Oh, I don't know what to say to that. Oh dear, wish you hadn't said that. Vorrei tanto che uno me l'avesse detta questa cosa. Questa era Jamaica Kincaid, ora in libreria con Vedi adesso allora, pubblicato in Italia da Adelphi con la traduzione di Silvia Pareschi. Oh, adesso parliamo del mio libro preferito in assoluto. Quando mi chiedono qual è il libro più bello che tu abbia letto in vita tua, io rispondo sempre Il vocabolario. Ma non è un giochino stupido, è perché veramente io ero appassionata di vocabolario, proprio quello con le pagine da sfogliare quando ero ragazzina. E poi in effetti, perché questa domanda mi mette sempre molto in crisi, qual è il tuo libro preferito? A proposito di vocabolario, nello Zingarelli del 2015 ci sono 55 definizioni d'autore, cioè alcune parole sono state descritte, diciamo così, da alcuni VIP. Non so, ci sono cantanti come Mina, attori come Tony Servillo, c'è Luca Parmitano, l'astronauta, poi c'è Carla Fracci, Francesco Guccini, Bruno Barbieri, insomma, ce ne sono veramente di ogni genere. Per quanto riguarda gli scrittori, c'è per esempio la definizione fatta da Lella Costa, e Lella Costa ha scelto la parola donna. E allora vediamo su che cosa ha puntato l'attenzione per definire questa parola. Ma intanto mi sembra giusto far presente che lo spazio era ridottissimo. Io sono piuttosto, non sono proprio concisa e sintetica, specie quando scrivo su un tema che mi è affine, che mi diverte e mi stimola, e poi è immenso e sconfinato, no? Donna vuol dire tutto. E allora ho giocato sulle assonanze, cercando di dare comunque una definizione che fosse ironica, appunto mettendoci dentro il tardivo riconoscimento del possesso dell'anima, piuttosto che il sinonimo di danno, piuttosto che l'origine da domina, che appunto significa signore, padrona della casa, ma che poi ha ben poca corrispondenza nell'accezione quotidiana, no? Cioè donna è sempre, ha sempre in sé una sfumatura di inferiorità, no? Ha il secondo sesso, è l'altra metà del cielo, non siamo mai le protagoniste. Insomma, Lella Costa non rinuncia all'ironia neanche quando scrive sul vocabolario. Ma io credo che mi abbiano chiesto di scrivere proprio perché in quanto personaggio con un'identità o comunque uno stile, una cifra, non so come chiamarlo, abbastanza riconoscibile, specifico, che non dico che, non mi, che sia sempre soltanto comico, ironico, irriverente, però insomma, diciamo che l'ironia è proprio una cifra che mi appartiene molto. Ho anche fatto un librino appunto sul concetto sull'ironia. Loro erano contenti, gli è piaciuta, hanno dovuto faticare un po', cioè, mi hanno chiesto di accorciarle, poi l'hanno accorciata ancora loro. Insomma, alla fine siamo arrivati a una definizione sintetica che tu concludi con mistero senza fine, virgola, appunto. Insomma, sì, le donne sono sempre associate comunque al fatto che non sono comprensibili. Il mistero senza fine bello era la definizione di Gozzano in non mi ricordo più quale poesia. Io l'ho usata in modo appunto ironico e provocatorio, perché allora noi ci abbiamo sempre questa sfumatura di inferiorità, siamo sempre il secondo sesso, appunto l'altra metà del cielo, siamo sempre complementari. Poi però se vai a vedere la biologia scopri che il cromosoma Y, che è quello degli uomini, sta perdendo i pezzi e prima o poi si estinguerà, mentre il nostro, che è quello, il cromosoma X, se per caso si guasta è capace di ripararsi da solo, quindi torniamo, se siamo davvero le domine, no? E questo appunto è un mistero senza fine, come nonostante persino la biologia e la genetica stabiliscano che abbiamo un primato, siamo più forti, più durature, più tenaci, più tutto, però continuiamo misteriosamente a essere considerate vicarie di qualcos'altro, di qualcun altro. A proposito di definizioni stereotipate, no? Si parla spesso, non so, per esempio di quote rosa, al di là del significato di quota, però la parola rosa, l'aggettivo rosa, a me infastidisce moltissimo, per esempio. Tu come lo vivi? Guarda, proprio perché appunto nel mio librino sul femminile che uscirà a novembre con Piemi ho proprio ragionato su questo, che voglio dire, già il concetto di aver bisogno di una protezione, di una tutela particolare non è, per carità, poi ce le facciamo andare bene perché servono, però almeno lo sforzo di inventare qualcos'altro, invece no, è rosa, capito? Il colore d'ufficio è rosa e quindi quando si facevano, ricordo, le prime rassegne di comicità femminile si chiamavano riso rosa, cioè proprio non fanno uno sforzo tanto così, però credo che stia a noi giocare con gli stereotipi, riderci sopra e soprattutto non farci condizionare, non farci imbrigliare, questo sarebbe grave. Dalle definizioni d'autore, abbiamo sentito prima Lella Costa, alle figuracce d'autore, perché infatti Figuracce è il titolo di un libro pubblicato qualche tempo fa da Einaudi a cura di Niccolò Ammaniti. In questo volume alcuni scrittori italiani raccontano insomma le brutte figure che loro hanno fatto nella loro vita. Tant'è vero che Niccolò Ammaniti dice che la vita in fondo non è che uno slalom fra le figure di merda. In questo volume ci sono scrittori come Francesco Piccolo, Christian Raimo, Paolo Giordano, Antonio Pascale e c'è anche Diego De Silva che abbiamo incontrato e che racconta in questo figuracce di una lettrice che all'inizio della sua carriera era, come dire, fin troppo pressante, gli scriveva delle lettere, oggi forse la definiremmo una stalker. Sentiamo Diego De Silva. Ma più che una stalker, perché non ha un comportamento serialmente ripetuto volto alla persecuzione, è proprio di quelle persone che riescono a essere naturalmente invadenti senza accorgersene e quindi questo protagonista si trova in una condizione di imbarazzo che gli è praticamente impossibile gestire, no? Io sono convinto che le figuracce si distinguano in due grandi categorie: quelle basate sull'equivoco, dove ti trovi incastrato in una situazione di flagranza che ti inchioda ad una realtà apparente che non è smentibile e sono tremendamente frustranti, ed è il caso appunto del mio racconto. E poi ci sono quelle basate sulla verità, in cui la realtà ti inchioda una situazione di flagranza in cui quello che pensi viene fuori e sono, come dire, altrettanto imbarazzanti, ma probabilmente le seconde lo sono meno della prima, perché sei inchiodato ad una situazione che da cui non puoi uscire neanche volendo usare la malafede, ecco. Ora non so quanto sia proprio rispondente alla realtà questo racconto che hai inserito nella raccolta Figuracce, però diciamo questa tua fan ti scrive delle lettere, ti manda anche il suo numero di telefono e tu hai l'ingenuità di chiamarla. Insomma, adesso che sei, un episodio accaduto appunto un po' di tempo fa, adesso che sei uno scrittore più navigato, mettiamola così, rifaresti lo stesso errore? Beh, sai, è difficile da dire, perché poi nel racconto ho cercato di descrivere minuziosamente anche quali sono i passaggi attraverso i quali questo personaggio fa questo scatto, diciamo, di fiducia verso una persona praticamente estranea. E sono anche quelle occasioni in cui tu ti apri a qualcuno perché ti sembrerebbe sgarbato non farlo, no? Sai, sono quelle forme di autocondizionamento nei confronti degli altri che alla fine ti possono ingabbiare in situazioni imbarazzanti, per cui sinceramente non saprei rispondere. Ma tu nella vita così di tutti i giorni sei uno che tende a fare figuracce, che tende a fare gaffe, oppure insomma sei uno misurato? No, diciamo, non sono particolarmente incline alla figura di merda, se quello che vuoi. Però sì, come tutti poi ci cado, ci finisco, e tutto sommato sono anche situazioni divertenti perché sono momenti di autenticità, no? Anche nel caso della figuraccia del primo tipo, la reazione che tu hai in una situazione di difficoltà, di imbarazzo, ti fa venire fuori per quello che sei, no? E quindi è molto difficile gestirla ed è molto buffa la gestione della figuraccia, no? Che più cerchi di riparare, più incasini tutto, no? È tutto per questa puntata del Cacciatore di Libri, che vi ricordo come sempre potete anche trovare in podcast. Su Facebook ci trovate come Il Cacciatore di Libri trattino Radio 24, su Twitter come Ale Teddina. Grazie in regia Valeria Bernardi, una buona lettura da Alessandra Tedesco.